Un pomeriggio al centro commerciale, non potrei immaginare come farmi più male. Mi hai convinto tu coi tuoi sorrisi interstellari, con facili lusinghe e con promesse sessuali. Un pomeriggio intero al centro commerciale, due ore a cerca un posto, ci ho perso anche un fanale. Sei a sette ore filate a fare comitate, poi tutto quel che provi ritieni ti stia male. Un pomeriggio al centro commerciale, non potrei immaginare come farmi più male. Mi hai convinta tu con i tuoi sorrisi interstellari, con facili lusinghe e con promesse sessuali. Un canto di Gesù, io non ti reggo più. Hai scelto qualche cosa perché fai la scontrosa. Non è poi colpa mia se quella signorina ignara ti ha fregato l'ultimo capo in vetrina. Ma io che ci sto a fare il capro espiatorio, insulti tiri fuori un ricco repertorio. Dai troppo buon caffè, ma dici non c'è tempo, fra un po' mi chiude il sana, se vuoi fartelo te. Un pomeriggio al centro commerciale, non potrei immaginare come farmi più male. Mi hai convinto tu con i tuoi sorrisi interstellari, con facili lusinghe e con promesse sessuali. Sono quasi l'otto e mezza, amo, io ci avrei fame. Se sei comprata tutto il centro commerciale, e poi se ti ricordi io mo te ci ho portata, ma tu avevi promesso una gran bella serata. Non guarda l'occhio stare che sono stanca morta, e poi sono arrabbiata che c'hai sta faccia morta. Non sei stato d'aiuto, non mi sai consigliare, a volte mi domando che ti ci porto a fare. Tesoro amore mio, sono stato così bene, la strada è lì, la vedi, a casa ci torni a piedi. Un pomeriggio al centro commerciale, non potrei immaginare come farmi più male. Mi hai convinta tu con i tuoi sorrisi interstellari, con facili lusinghe e con promesse sessuali.